Allora, per quanto riguarda, diciamo, la questione elettorale, sapete tutti come rispetto a tale situazione Rifondazione si è mossa. Ha dimostrato sostanzialmente di essere una setta chiusa e una lobby che rispetto a una questione come quella posta dal nostro percorso, dal nostro voto, diciamo, che poi è la risultante della sperimentazione sociale, culturale, delle lotte che abbiamo fatto in questi anni, chiaramente Rifondazione ha nicchiato privilegiando se stessa rispetto, diciamo, allo spostamento in avanti degli equilibri complessivi di un movimento e dell'organizzazione della società civile. Dico questo perché appunto alla fine dentro tutta questa questione loro si sono riproposti sempre allo stesso modo, dall'altro facendoci un furto, rubandoci circa 23.000 voti che vengono sostanzialmente da un'area che non votava Rifondazione o che non votava proprio, e sostanzialmente è stata fatta una polemica anche da parte di Rifondazione cercando di incattarla agli occhi, insomma, di tutti coloro che in qualche modo erano stati protagonisti di questa vicenda, soprattutto il nostro popolo. Incartandola a livello mediatico dicendo che il problema era fra me e Vendola, era un problema appunto di rappresentanza, io avrei preso meno voti di Vendola, ma chiaramente il problema è falso, è ipocrita e sostanzialmente la dice lunga sul ruolo tutto burocratico di Rifondazione dentro la scena politica da sinistra. Non è che copriamo l'acqua calda, però sicuramente questo partito che ha sempre parlato di movimenti, di fronte alla prima verifica, al primo banco di prova, si è cagato in mano. E allora da questo punto di vista che cosa è successo? Che stanno cercando appunto di dare un senso che è un problema di rappresentanza, ma se è un problema di rappresentanza noi siamo fra i primi 5 più votati e per cui con 23.000 voti dovevo tranquillamente andare in Europa, visto che chi è andato in Europa è Roberto Musacchio, che è un militante romano di Rifondazione, un funzionario di partito mandato in Veneto e con 7.000 voti va in Europa, per cui è anche strumentale la polemica di Rifondazione, ipocrita rispetto al fatto che vorrei levare o pretenderei il seggio di Vendola. A noi delle poltrone non ci interessa, abbiamo fatto una grande scommessa e ci siamo affermati con una grande vittoria che ha portato 23.000 preferenze a quello che è appunto un nuovo spazio pubblico che abbiamo costruito, uno spazio pubblico fatto di mondi e di organizzazione e di auto-organizzazione, non certo uno spazio pubblico testimoniale, classico per i partiti alla Rifondazione Comunista, che magari ci avranno pure il 6, il 7 o l'8%, però poi sostanzialmente sul terreno dell'azione di massa non riescono, se non sul terreno testimoniale, poi effettivamente a cambiare la situazione. Dico questo anche per rispetto a tutti quei compagni di Rifondazione che hanno lavorato praticamente con noi al nostro fianco e l'hanno fatto libere da logiche settarie o di partito. Chiaramente questa direzione nazionale oggi si è rivelata una direzione nazionale che, al di là delle parole, insomma, poi è sostanzialmente permeata dall'opportunismo e dalla miopia, ma non ci sarà problema, noi rimettiamo la necessità o meno di rompere con il Consiglio Comunale, anche, cioè, nel senso, ridare anche la fortuna alla consigliere comunale, perché giustamente si sono ridefiniti una serie di rapporti, ma lo vogliamo fare tramite una consultazione ampia del nostro popolo, della nostra gente, e dall'esito di questa consultazione dipenderà anche il nostro atteggiamento rispetto all'istituzione locale o municipale, insomma, in particolare a Roma. Rifondazione si è comportata in maniera diciamo indegna, anche perché la solita cupola ha deciso nel chiuso delle sue stanze appunto qual era il tipo di decisione da prendere, l'ha fatto in barba anche alla, diciamo, volontà di molti pezzi sia metropolitani nazionali del partito. Non voglio entrare nel merito di questa discussione, per cui chiaramente ancora una volta si è privilegiati se stessi, la propria sbornia elettorale, il consenso elettorale, come se questo di per sé appunto bastasse poi in qualche modo a creare una tranquillità e a ridefinire i rapporti col movimento. Non c'è problema, noi andiamo avanti, anzi forti di una grande vittoria, e per fortuna siamo riusciti a mettere davanti alla sinistra, ma anche all'opinione pubblica, ai tanti compagni e compagne che ci guardano, ai democratici, qual è il vero poi ruolo di Rifondazione. Oggi è toccato a noi, domani potrebbe toccare a qualcun altro, per cui la falsità delle aperture di chi parla di movimenti solamente per prendere voti oggi è più che mai evidente.